Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 6 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero. Io non vi dico immediatamente l'argomento di oggi perché posso solo anticiparvi il fatto che riguarda tutti noi e la nostra quotidianità, davvero. Una cosa che ci fa anche arrabbiare, talvolta. Noi cercheremo di sorridere oggi, però un po' ci arrabbieremo anche. Prima voglio ricordarvi che anche oggi giocheremo con Manè in 24 minuti. Per voi la possibilità di portarvi a casa i biglietti per l'ingresso alla mostra di Venezia, Palazzo Ducale. Manè, ritorno a Venezia. Dovete associare una canzone che vi faccio ascoltare al titolo di un'opera di Manè. E chi indovinerà si porterà a casa appunto i biglietti di ingresso. Il numero verde per prenotarvi, potete farlo già da adesso, 800 24 0024. Avrete capito che poi io vi aiuterò il più possibile per portarvi a casa il premio, e questa è la canzone di oggi. Di Sarah Brightman, il titolo della canzone l'avete sentita, è molto arrabbeggiante, infatti si intitola Harem e dovrebbe indicarvi il titolo di un'opera di Manè. Ci sentiamo per questo più tardi alle 11.45 circa, 800 24 0024. Ogni 100.000 abitanti ci sono in Europa 127 avvocati, bene, invece la media italiana è di 406, solo la Val d'Aosta che è la più virtuosa con 139. E la sproporzione poi si accentua fino a toccare a Roma nel mezzogiorno numeri da brivido: 524 toghe nel Lazio, 586 in Puglia, 652 in Campania, 664 in Calabria, dove addirittura c'è un legale ogni 150 abitanti contro la media continentale di 1 ogni 787. Non so se avete letto l'articolo del Corriere della Sera di Gian Antonio Stella, che ha portato alla luce questo fatto, accreditato anche dai numeri: dove ci sono più avvocati ci sono anche più cause, e peggio va la giustizia e più certi trafficoni delle aule giudiziarie ne traggono profitto. E la stessa ANIA, che è l'associazione delle imprese assicuratrici, ha pubblicato proprio online il suo rapporto 2012 e 2013, e in questo rapporto viene detto che oltre 240.000 cause civili pendenti davanti a un giudice di pace, circa 150.000 sono concentrate in Campania. E quindi, insomma, questa è la situazione dell'Italia, ma vi invito poi a leggere anche questo rapporto dell'ANIA. Però districarsi fra le 200.000 leggi italiane è veramente difficile, è anche uno sproposito di leggi, visto che quelle francesi sono 7.000 e quelle inglesi sono 3.000. Quindi è difficile districarsi perché le stesse leggi a volte si contraddicono o comunque sono paradossali, e di questo parliamo. Insomma, un paradosso che troviamo nelle aule giudiziarie, ma che troviamo anche nella vita di tutti i giorni. Quindi nel riposo del guerriero di oggi parleremo sì di diritto, però ci sposteremo anche sui paradossi in genere. Vedremo come noi stessi possiamo essere paradossali senza accorgercene, e cercheremo i paradossi nella scienza. Ce ne sono anche di molto divertenti, nella lingua sicuramente, nelle arti figurative, e proveremo anche a cercare di creare dei paradossi personali, che anzi vi invito a costruire, a mandare via Facebook alla nostra pagina Il riposo del guerriero, oppure al nostro numero degli SMS 349-238-6666. Si parla di paradossi e non solo del diritto oggi, e pensando a questo termine è venuta in mente una canzone, quella di che Simone Cristicchi ha portato a Sanremo quest'anno. Si intitola La prima volta che son morto. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta. Simone Cristicchi, la prima volta che sono morto, chiaramente siamo partiti con un paradosso, non so se avete sentito il testo della canzone, che è anche molto divertente da una parte e amaro dall'altra. Mi ricordava un po' un Daniele Silvestri di qualche tempo fa. Marco Martinez, buona domenica. Pronto? Buongiorno, Marco Martinez insieme ad Antonello Martinez hanno scritto Quando il diritto va a rovescio, riflessioni semiserie sull'involontaria comicità della legge. È vero che abbiamo 200.000 leggi? Parzialmente è vero, perché il numero è stato approssimato per difetto, non abbiamo avuto proprio la possibilità di quantificare nel dettaglio tutto il panorama normativo a vari livelli in Italia, è un'ipotesi così approssimata appunto per difetto. Ma come mai agli inglesi ne bastano 3.000 e noi abbiamo bisogno invece di 200.000? Ma è un sistema diverso. Sì, infatti. Loro basano il sistema giudiziario moltissimo su quelle che sono le sentenze dei giudici, quindi in realtà avendo poche leggi cardine, poi dopo è la sentenza del giudice che di volta in volta viene emessa che fa legge. Ecco, allora io faccio così, la fermo qui, adesso c'è il traffico, ma perché? Per capire bene quello che ha appena detto, bisogna partire dalla legge sulla privacy, per capire come funziona il nostro sistema e poi andiamo a vedere come funziona il loro e anche il sistema di altre nazioni, con dei paradossi anche da parte loro, che se non sono proprio paradossi, sono leggi piuttosto curiose. Sì, però credo che questo faccia capire veramente molto bene la differenza. Assolutamente d'accordo. Il riposo del guerriero. Intanto ringrazio gli ascoltatori che già stanno pubblicando alcuni paradossi, poi appunto se li volete inventare potete anche farlo, poi vi insegniamo anche il metodo, cioè non io ma un ospite che più tardi ascolteremo. Il numero è 349-238-6666, poi c'è la pagina di Facebook. Allora, avvocato Martinez, cominciamo. Voi avete un capitoletto dedicato proprio, intitolato così, alla privacy, il linguaggio segreto della privacy, perché tutti noi vorremmo conoscere questa legge, ma non è così facile. Ma credo neanche per voi avvocati sia così semplice. No, in realtà dovendo applicare proprio alla virgola il dettatore della legge, non si finirebbe in giornata di leggere tutti i vari richiami normativi che in quella legge vengono fatti. Ecco, però mi scusi, ma umanamente com'è possibile? Adesso io leggo soltanto l'inizio, guardate che veramente le righe sono tantissime, io ne leggo solo tipo due. Legge 4 novembre 2010 numero 183, legge 29 luglio 2010 numero 120, legge 20 novembre 2009 numero 166 di conversione con modificazioni del decreto legge numero 135 del 25 settembre 2009. Cioè, viste queste leggi, ma non solo queste, io ne ho citate 4, ma ne dovrei citare 400, non so quante siano, so meno, però sono tantissime. Quindi uno dovrebbe andarsi a vedere, anzi dovrebbe saperle tutte, per capire esattamente di cosa stiamo parlando per arrivare poi al punto? Esatto, il signor Veneranda della situazione dovrebbe andare a ritroso sino ad arrivare ai principi costituzionali, non basterebbe credo veramente un arco di tempo ricompreso nell'arco di un mese, perché sono una marea di leggi che vengono date, di norme, di richiami normativi che vengono dati per scontati, ma che in realtà ovviamente il destinatario finale del prodotto legge ben si guarda dall'andare a verificare e le accetta un po' per buone. Fatto che spessissimo crea ulteriori problemi, perché vengono anche richiamate leggi che assolutamente ben poco hanno a che vedere o comunque vengono applicate le strutture interpretative e applicative della legge. In sostanza si passa attraverso un percorso normativo per disciplinare un problema che spesso è lontano chilometri da quello che è in realtà il contenuto della legge che viene richiamata, ma è un sistema, proprio il sistema, che è assolutamente completamente sbagliato. Insomma, basta davvero leggere i preamboli delle leggi per capire che davvero un cittadino che si voglia prendere la briga di andare a controllare quali sono state le ragioni per le quali la legge di cui si discute sia stata emanata, non arriverebbe al termine dopo un lunghissimo periodo di letture di testi. Ecco, però se cioè, non arriverebbe un cittadino comune, ma io non lo so quanto anche gli avvocati possano arrivarci. No, no. dà per scontato. Si dà per scontato. È impensabile. Poi al momento opportuno, quando l'avvocato dovrà andare a cercare di tutelare gli interessi del cliente, legittimamente badi bene, perché io voglio spezzare una lancia nei confronti di quei pochi avvocati. Ma deve farlo, certo. Che non vengono coinvolti dalle affermazioni un po' così generiche, che pure sono giustificate. Dalle polemiche di questi giorni, ecco, affermazioni che sono state fatte, voglio ricordare la Cancelleri, a questo si riferiva, immagino. Esatto. E vabbè, però insomma si può discutere di questo, no? Sì, assolutamente d'accordo, no. Lì, ma in realtà ovviamente in nessun gregge non ci sono pecore nere, ci mancherebbe altro, però insomma generalizzare è sempre un grande errore. E mi sarei aspettato che anche il nostro ministro non avrebbe dovuto generalizzare, ecco, anche perché le nostre leggi sono talmente puntigliose e non generalizzano affatto. Abbiamo appena visto questo sulla privacy. Lì il problema. Quindi alla fine, ecco, alla fine, per inciso, si richiama ai diritti delle libertà fondamentali. Il garante della Costituzione dice che poi il Presidente della Repubblica deve leggere tutto questo, deve vedere se tutto questo è costituzionale o meno, quadra. Esatto, e credo che sia impossibile anche per lui, comunque, alla fine. Non è impossibile per nessuno, ecco, che sono lavori che teoricamente dovrebbero durare mesi e mesi e mesi e che poi debbono portare un prodotto finito che parte da quel presupposto, ma che chiunque, per poter verificare l'esattezza di quanto affermato nel preambolo, nell'incipit della legge, non ha praticamente lo spazio. Ma diciamo che è davvero, si fa un discorso un po' di fiducia. Sì, certo, alla fine noi infatti cittadini diciamo per la privacy non possono farlo, non sappiamo cosa stiamo dicendo, cioè pronunciando la parola privacy in realtà abbiamo pronunciato non so quanti articoli, ecco, sì. E quante leggi. E questo funziona così in Italia, quindi ecco perché sono 200.000 più o meno, abbiamo detto, però siamo lì, perché ogni legge si rifà un'altra e così il diritto funziona, sì, in questo modo. E non solo, ovviamente, lei ha detto una cosa importantissima, il fatto che molte leggi siano anche sin troppo dettagliate. C'è un po' la pretesa anche di arrivare a disciplinare tutti i momenti della vita dell'uomo, cosa che negli altri sistemi questo non avviene. Ecco, non avviene, e infatti abbiamo delle assurdità. Abbiamo delle assurdità. O apparenti tali, insomma. Ecco. Assolutamente, d'accordo con lei. Se si riferisce alle leggi internazionali... Ecco, perché le leggi internazionali invece si fondano su quello che è stato, sui giudizi che sono stati dati nel passato. Esatto, in sostanza è il cosiddetto principio di giurisprudenza, per cui se abbiamo presenti un po' tutti i telefilm dozzinali dei polizieschi americani, degli avvocati, cosa fanno, cosa si devono fare? Si devono cercare nei libroni, ho trovato un principio giurisprudenziale, così risolviamo questa causa. Beh, qui non sarebbe possibile adottare questo sistema, mentre lì se uno trova una sentenza che decide in un certo modo una situazione che in qualche modo possa essere ricondotta a quella che l'avvocato sta analizzando. Quello fa testo. Prego? Quello fa testo. Quello fa testo. Lei consideri che noi abbiamo sentenze, come è stato richiamato, della nostra Corte di Cassazione, sì, che della stessa sezione, in momenti diversi della stessa settimana, disciplinano casi assolutamente simili, non identici, ma comunque simili certamente, in maniera diametralmente opposta. E questo fa un po' arrabbiare, però. Ma direi proprio che è croce edilizia degli avvocati, nel senso che chi vuol perdere tempo, come giustamente ha osservato lei, ed è un po' la critica che viene fatta agli avvocati, ha modo di argomentare in che maniera sensata le ragioni dei propri clienti. Spesso è giusto farlo, spesso invece viene utilizzato come elemento defatigatorio, come inutile perdita di tempo, ma perché è il sistema, è la stessa nostra Corte di Cassazione che purtroppo mette a disposizione sentenze altamente contraddittorie, e ne abbiamo riportato nel libro solo una minimissima parte. Certo, poi cercheremo anche di vedere altre situazioni. Adesso io volevo partire da qui perché credo che questo sia il presupposto, domandarci sempre perché noi abbiamo così tante leggi invece di altri stati molte meno, appunto perché il presupposto è completamente diverso. Certo, si arriva ad avere leggi negli Stati Uniti, parliamo dello stato di New York, dove è vietato circolare con un cono gelato in tasca. Questo perché sarà successo qualcosa, giusto? Nel passato. Sì, assolutamente sì, bisogna vedere come è stata contestualizzata quella, ma io mi domando anche, in Canada è vietato gettare alci dagli aerei. Vuol dire che qualcuno l'ha fatto, però. Evidentemente qualcuno voleva l'ha fatto farlo, entrando chissà quale bersaglio, e questo è stato ovviamente ritenuto illegale. E quella nel sistema diciamo anglosassone è considerata una norma che farà testo, questo sicuramente. Qui ci sono delle norme, è tutt'oggi vietato entrare in Parlamento con l'armatura. E certo, sì, anche perché sarebbe anche scomoda e poi suonerebbe il metal detector. In Pennsylvania questa cosa mi ha fatto accapponare la pelle per diversi motivi. In Pennsylvania è vietato alle casalinghe, notare che devono essere per forza donne perché è scritto così, nascondere la polvere e lo sporco sotto i tappeti. Immagino che i casalinghi lo possano fare, invece le donne no. Già questo è terribile, però vabbè. Evidentemente sì, però insomma. Quindi c'era un marito che si lamentava perché aveva la casa piena di polvere sotto il tappeto, cioè così ha funzionato. Doveva essere un marito anche particolarmente influente, se è riuscito a tenere una sentenza, addirittura una sentenza giudiziaria. Ecco, l'attenzione per il buon gusto si estende al bagno, siamo sempre in Pennsylvania, dove si fa divieto di cantare nella vasca. Questa è una legge nazionale, cioè dello Stato della Pennsylvania. Quindi io sono in vasca, non può cantare, non capisco perché, però appunto perché nel passato è certo. Si può estendere anche alla doccia a questo punto, la doccia probabilmente in Italia ci sarebbe una causa per dire. sarebbe costante. Io invito anche gli ascoltatori, se hanno qualche curiosità sulle leggi che trovano assurde o sulle norme che trovano assurde, ce ne sono anche italiane, per esempio quella dove è vietato morire in un determinato comune, ma dopo spieghiamo il perché, è italiano ed è già curioso. Appunto che non si possa morire in quel comune. 349-238-6666 e Marco Martinez, resti lì perché c'è Alessio Palmero Arrosio al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, Alessio Palmero Arrosio ha scritto un libro, è dottore del Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell'Università di Studi di Milano, un libro per cercare di far capire come le contraddizioni della logica e quindi i paradossi della logica possono essere anche spiegati ai bambini o comunque alle persone così che non hanno una conoscenza così approfondita, e ha scritto un libro intitolato Pinocchio nel paese dei paradossi. Viaggio fra le contraddizioni della logica. È stata presa in prestito la favola di Pinocchio, un po' ricucita, ricostruita, e i paradossi sono emersi. Sì, tra l'altro, visto che avete parlato prima di paradossi della giurisprudenza, potrei ricollegarmi col primo capitolo. Sì. Quando a un certo punto c'è, ad esempio, c'è questa scena in cui Mastro Ciliegia e Geppetto si scambiano questo pezzo di legno da cui poi nascerà Pinocchio, e in pratica Geppetto si reca da Mastro Ciliegia proprio per chiedergli in prestito un pezzo di legno, perché era già andato in banca, ma per poter avere in prestito un pezzo di legno doveva dare un altro pezzo di legno per sicurezza. Ecco, no? Guarda, Alessio Palmero Prosio, guardi che Martinez nel libro cita proprio questo come paradosso, è uno dei paradossi citati anche nel libro, quindi lo è sul serio, quindi sì, anche sì, nelle infatti, nostre infatti, regole. Cioè, un altro paradosso simile è quando appunto Mastro Ciliegia ha bisogno di vedere una cosa e allora cerca gli occhiali, però chiaramente li cercherebbe più facilmente se li avesse già sul naso, però a quel punto non gli servirebbe più cercarli. Quindi in questa ottica diciamo che si ricollega proprio il paradosso, che è quello poi che risale all'antica Grecia, di Epimenide, in cui lui cretese diceva tutti i cretesi sono bugiardi, e appunto a questo punto Epimenide era bugiardo o no facendo questa affermazione, perché se fosse stato bugiardo voleva dire che l'affermazione era falsa, altrimenti se invece avesse detto la verità voleva dire che appunto lui doveva essere un bugiardo. E si parte da lì, e qui il ragionamento comincia a scattare. Ovviamente la fermo un attimo, c'è la pubblicità e poi vedremo se per esempio il Pinocchio costruito da Geppetto è sempre lo stesso oppure se Pinocchio cambia con il tempo. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di paradossi e raccontando del libro Pinocchio nel paese dei paradossi, un viaggio fra le contraddizioni della logica, e quando appare, appare sparire, svanire proprio nel nulla. Allora, Palmero Prosio, Pinocchio è stato costruito da Geppetto, che comincia a fare il suo burattino, che però siccome è un bambino ne combina di tutti i colori e mano a mano si rompe. Esatto, infatti lui scalpita, salta in giro, vuole andare in giro, alla fine pezzo dopo pezzo, poverino, lui una volta si rompe un piede, una volta un braccio, una volta probabilmente anche il naso, e il pazientissimo Geppetto lo ripara, insomma, anche perché per Geppetto era come un figlio. E quindi dopo un po' di questi eventi traumatici, Geppetto si accorge che tutti i pezzi alla fine di Pinocchio sono stati sostituiti uno alla volta, pian piano, e quindi si chiede: ma questo burattino qui è ancora il mio Pinocchio oppure no? La domanda è lecita, la poniamo a tutti, è ancora, bisogna capire da dove si parte. Esatto, questo paradosso risale addirittura al primo secolo dopo Cristo, quindi a quasi 2000 anni, quando Teseo, il re di Atene, navigava con la sua enorme nave, e ovviamente questa nave aveva bisogno di sostituire i pezzi man mano che questi si rompevano, e dopo un po' il maniscalco che la riparava appunto si è reso conto che tutti i pezzi pian piano erano stati sostituiti, e quindi questa nave qua era ancora la mitica nave di Teseo su cui questo re viaggiava in giro per il mondo oppure no? Oppure più in generale, anche noi, con le nostre cellule che si sostituiscono giorno dopo giorno, siamo sempre noi oppure siamo... Questo è un bel pensiero, il fatto che le nostre cellule vengono sostituite quotidianamente, anche la nostra personalità comunque si modifica con il tempo in base all'esperienza, quindi forse noi cambiamo, noi non siamo gli stessi, ci cambiamo nello stesso modo, ma forse siamo persone completamente diverse a distanza di anni. D'altra parte impariamo, ci evolviamo anche noi, e quindi in questo riprende un po' il Pantarei di Eraclito, in cui tutto scorre, anche un fiume che viene visto in un certo momento non è il fiume che è stato un secondo prima, quando appunto l'acqua era messa diversamente, gli struzzi erano leggermente diversi. È un po' vero, quindi, perché quando si cerca di ripetere un'esperienza, per esempio, non si riesce mai a ripeterla nel vero senso della parola, qualcosa cambia comunque, e quindi non è così come è apparsa la prima volta. Adesso per Mero Prose, io la ringrazio, voglio ricordare il titolo del libro, Pinocchio nel paese dei paradossi, viaggio fra le contraddizioni della logica, edito da Sironi, mille. Buona domenica, grazie. Avvocato Martinez. Eccoci qua. Allora, ripartiamo dall'Italia, da questo comune dove non è possibile morire. C'è una ma è una legge recente, anche un'ordinanza del sindaco, se non mi sbaglio. Sì, è un'ordinanza del sindaco, ovviamente molto provocatoria, perché verteva in un tema di capacità di ascoltare, di accettare defunti nel cimitero. Mi posso rilasciare un secondo al discorso del paradosso? Certo. Giusto per collegarmi a quanto diceva il nostro interlocutore che ci ha salutato poco fa, c'è una legge purtroppo ormai da anni e non è stata modificata, benché all'inizio avesse suscitato parecchi clamori, ed è la legge sulla emissione degli assegni a vuoto. Sì. L'emissione degli assegni a vuoto che è stata depenalizzata, cioè non è più un reato emettere assegni a vuoto, e sin qui potrebbe anche andare bene, perché per carità, anzi bisognerebbe intervenire in maniera più massiccia per depenalizzare alcune situazioni della vita di tutti i giorni, perché così si alleggerirebbe il carico delle aule di giustizia. Bene, secondo lei qual è stata, come è stata trasformata? Beh, una pena pecuniaria ovviamente, ovvio, no? Certo. Qual è la base di un'emissione di una sedia a vuoto, al di là delle situazioni truffaldine eccetera, è quella che un soggetto non ha soldi. Bene, lo Stato ha pensato bene a un soggetto che non ha soldi di condannarlo a pagare una somma. È il concetto, del prestito lasciato a chi ha comunque la copertura, insomma, quindi ecco, la fiduciosione di qualcuno, no, che abbia. Sì, quindi un po' il senso è quello lì. È un po' un paradosso, certo. Assolutamente. Ma come pure, insomma, purtroppo Pantarei, ma tutto è sempre uguale, perché ci si domanda veramente il senso anche di leggi recentissime. Se non ci fosse stata una levata di scudi nazionale, la città di Milano avrebbe visto vietato vendere coni gelati oltre una determinata sì, ora. Cioè, sì. Che poi non si capisce mai se è l'idea di qualcuno oppure se davvero era, perché bisognerebbe leggere davvero quello che è stato. Io ho letto semplicemente l'articolo, non sono andato a leggere l'ordinanza. Il prodotto finale, la ecco. Norma di scalpore. No, ma ce ne sarebbero tante di cose. Poi lei tocca un argomento che mi è stato molto a cuore. Mi sono spostato da quella zona perché è diventata invivibile proprio grazie a tutta questa serie di ordinanze curiose. Invece vado in Sardegna, visto che lei è lì, Perché sul quotidiano L'Unione Sarda del 4 dicembre 2010, riportato sul vostro libro, si parla di un reato terribile. E il reato terribile è questo: il pascolo abusivo d'api. Esatto. Un signore è stato accusato, sì, di aver pascolato abusivamente le api nel fondo del vicino. Il collega che ha difeso, sta difendendo, devo dire, perché ancora... Ah, la causa è chiaramente del 2010, sì, quindi sta andando avanti, ci vorrà... sì. Purtroppo la situazione anche da noi è così. E il collega penso che avrà gioco facile teoricamente per vincere l'accusa terribile di aver non contenuto il gregge, lo sciame, cosa, perché poi tra l'altro che termine usiamo? Gregge, sciame, perché il pascolo in questo caso è riferito al gregge oppure a una mandria. Quindi le api in poche parole sono andate a succhiare il nettaro su fiori, esatto, altrui. Ecco. Questo signore coltivava delle api, le, sì, api sono andate a suggerire il nettaro da altre parti, state, cioè il vicino rissosissimo. Ecco, mi faccia sapere come andrà la causa, perché nel caso dovesse vincere non l'allevatore di api ma l'altra persona. Lo voglio sapere così, nel giardino eventualmente se vedo api proprie di qualcuno vado a denunciarlo immediatamente e poi dico assolutamente una ripicca terribile. Le assurdità, senz'altro informato. Grazie, le assurdità sono veramente tante. C'è un paradosso scritto da voi, grazie, e dice: Dio creò il mondo e fu la luce. Ecco, questo chiaramente è un paradosso, ma è un paradosso curioso, perché di questo adesso parliamo. Emiliano Ricci, buona domenica. Sì, buona domenica a voi. Emiliano Ricci è fisico all'Università degli Studi di Firenze, e tra i paradossi della scienza c'è proprio questo, vero? Sì, la luce, sì, e il buio. Sì, la luce e il buio, esattamente. C'è questo paradosso, un paradosso curioso che nasce diversi secoli fa e poi venne in maniera formulato in maniera chiara da un astronomo tedesco, Heinrich Olbers, nel 1826, con la domanda: perché il cielo di notte è buio? Perché? È una domanda abbastanza curiosa, perché noi effettivamente osserviamo di notte che il cielo è buio, però con le conoscenze dell'epoca, quando si supponeva che l'universo fosse infinito e infinitamente popolato di stelle, ci si immaginava che effettivamente le stelle fossero così tante, appunto perché infinite, che avrebbero illuminato anche il cielo notturno tanto quanto il cielo diurno. E all'epoca non avevamo la soluzione. Questa soluzione è arrivata fondamentalmente nei primi 30 anni del secolo scorso, fra il 1900 e il 1930, quanto si sono scoperti alcune cose fondamentali. La cosa fondamentale che permette di dare una spiegazione al perché il cielo di notte è buio, perlomeno secondo la maggior parte degli astronomi, è il fatto che l'universo si espande, quindi l'espansione dell'universo, e il fatto che l'universo non abbia un'età infinita, ma che in realtà abbia una certa età, quindi un'età limitata, che per quanto grande, gli astronomi suppongono, calcolano che l'universo abbia 13 miliardi e 700 milioni di anni, quindi è vecchierello per la verità, sì, ma dal punto di vista cosmologico è un universo piuttosto giovane. Quindi come si spiega il fatto che non si vedano, cioè perché che il cielo di notte sia buio? Fondamentalmente che da un lato il fatto che la luce delle stelle più lontane di 13, delle eventuali stelle più lontane di 13 miliardi e mezzo di anni non c'è ancora arrivata, perché sicuramente gli ascoltatori sanno che la velocità della luce è finita. La velocità della luce è la velocità massima raggiungibile da un qualunque oggetto reale, è 300.000 km al secondo, quindi è molto alta, ma anche questa finita. Ma quindi, non per abbastanza, esempio, sì, che so, il Sole, quel Sole che stiamo vedendo noi in questo momento, supponendo che sia sereno ovunque sulla penisola italiana, è un Sole di 8 minuti fa, perché la luce per arrivare dal Sole a noi ci mette 8 minuti. Quindi quando noi vediamo lontano nello spazio in realtà osserviamo anche lontano nel tempo, perché una galassia che ha emesso la luce 13 miliardi di anni fa, che distante 13 miliardi di anni luce, l'ha emessa 13 miliardi di anni fa. Quindi noi praticamente non vediamo oggetti che stanno oltre quello che i cosmologi chiamano orizzonte cosmico, perché sono più lontani, e poi l'universo che si espande significa che in realtà la luce che ci arriva, siccome tutte le galassie si allontanano le une dalle altre, è una luce che arriva tra virgolette stanca, è una luce più debole di quella che sarebbe visibile, e quindi non riusciamo a vederla perché è una luce che è spostata verso, come tecnicamente, verso lunghezze d'onda più lunghe, quindi verso l'infrarosso, le microonde e così via, e quindi non sono visibili, ecco. Non sono visibili. Certo che uno se comincia a pensare a queste cose poi le smette, cioè nessuno dice vabbè adesso bevo qualcosa per cercare di raccapezzarmi un attimo. E proprio questo mi fa pensare poi al paradosso dei gemelli di Einstein, invece, perché riguarda proprio questo, no? La distanza. Esattamente, sì, la questione dei paradossi connessi ai viaggi a velocità prossime a quelle della luce. Dicevamo poco fa che appunto la luce è la velocità massima la velocità della luce è la velocità massima raggiungibile, e Einstein fu il fisico che in qualche modo riuscì a determinare, a teorizzare in maniera corretta, con la sua teoria della relatività ristretta e successivamente con la teoria della relatività generale, come si potesse conciliare la finitezza della velocità della luce con le osservazioni che si facevano in fisica e in astronomia, e dalla sua teoria nacque appunto questo paradosso dei gemelli, che è un paradosso celebre e abbastanza curioso. Sostanzialmente, se uno dei nostri ascoltatori in questo momento ha un fratello gemello che domani parte alla volta della stella più vicina a noi, Proxima Centauri, che dista appena 4 anni luce spiccioli, quindi la luce della stella che viene da Proxima Centauri è partita soltanto 4 anni fa, supponiamo che per fare questo viaggio il fratello gemello impieghi 5 anni. Poi c'è altri 5 anni per tornare indietro. Sì. Ecco, curiosamente sulla Terra sono passati 10 anni. Ma in realtà per il gemello che ha fatto il viaggio interstellare ne sono passati appena 6. E quindi il gemello torna più giovane di quello che è rimasto. E bisogna capire se è vero poi questo, però, se funziona veramente così. Perché sì, sennò, allora, l'aspetto paradossale è che, secondo la relatività, uno dice, è vero che è il fratello, uno dei due che viaggia e quell'altro sta fermo, ma visto dall'altro punto di vista sta fermo quello sull'astronave e si muove quello sulla Terra. Esatto. Quindi per la relatività uno dice il fenomeno dovrebbe essere equivalente e rimangono tutti e due con la stessa età. Assolutamente falsa questa affermazione. Perché? Perché in realtà il fratello gemello che viaggia, fa il viaggio interstellare, torna effettivamente più giovane. Perché in realtà quando noi esponiamo questo paradosso facciamo una semplificazione. La semplificazione è connessa al fatto che per arrivare alla stella e tornare indietro, il fratello gemello sull'astronave deve frenare e poi riaccelerare. Quindi in pratica cambia quello che in fisica si chiama sistema di riferimento, mentre il paradosso dei gemelli è paradossale nella misura in cui noi consideriamo la velocità del gemello uniforme, cioè si allontana a quella velocità e torna indietro. Ma invece non velocità. È così nella realtà dei fatti. In realtà non è così, perché deve frenare e riaccelerare, quindi questa frenata e questa riaccelerazione fa sì che il guadagno netto sia effettivo, e quindi se uno volesse rimanere effettivamente giovane dovrebbe in qualche modo mettersi in atto, costruire un'astronave che viaggia a velocità molto vicine a quelle della luce. Però ci sono degli esperimenti, tanto per chiarire agli ascoltatori, gli esperimenti reali fatti sulla Terra su degli aeroplani. ovviamente il tempo che risparmia, che diciamo gli orologi vanno più lentamente quando si viaggia veloci, questo è fondamentale. Ecco, allora io la saluto, dottor Milano Ricci, no, mi scusi, no, nel senso che io starei ad ascoltarla per tutta la giornata su questo, ma io mi sono già completamente perso. E allora a questo punto, a una prossima puntata, ci racconterà bene degli aerei e di come si possa ringiovanire in qualche modo, insomma. Ecco, grazie ancora e buona domenica. Il riposo del guerriero. Torniamo dal nostro avvocato Marco Martinez. Quando il diritto va a rovescio, il libro dal quale siamo partiti oggi, riflessioni semiserie sull'involontaria comicità della legge, edito da Sperling. E allora, fino a qualche anno fa, negro non era ritenuto un insulto. Mi ricordo anche un carosello che abbiamo anche fatto riascoltare qualche tempo fa, dove si parla tranquillamente, si usa tranquillamente l'aggettivo negro. Poi a un certo punto invece ha cominciato a prendere una connotazione negativa e oggi è un epiteto ritenuto offensivo. Avvocato, però se sei molto arrabbiato lo puoi dire? No, assolutamente, in ogni caso ci sono delle chiavi di lettura che variano col variare del tempo, come ha detto lei. Sostanzialmente oggi la nostra giurisprudenza consentirebbe, in caso di assoluta perdita della facoltà di autocontrollo, e consentirebbe questo, ma questa è solo una delle sentenze che noi abbiamo riportato tra significative. E, peraltro poi ci sarebbe molto da dire, ma ci sono sentenze proprio assolutamente paradossali, ingiustificabili, ecco, sì, nemmeno, diciamo se, nemmeno col variare dei tempi. Per esempio, se una moglie è forte la puoi maltrattare. L'assurdo è già in sé, okay. Esatto. Arriviamo nel dettaglio, possiamo scendere nel particolare. Per esempio, forte in che senso? Prima cosa. Moralmente, ma o fisicamente. E se è fisicamente forte, dove? Le braccia sono forti, hai muscoli, non so, le cosce grosse, non lo so. Cioè, voglio dire, poi sono tante le cose, non ce n'è solo una. La sentenza di cui discutiamo è fa riferimento a una fortezza morale. Cioè, praticamente il giudice ha detto: no, sostanzialmente il carattere della signora era molto forte, quindi. Ah, ecco, il carattere è forte. Non aveva grande rilievo. Va bene, sì, reagiva, tanto. Certo. Ma abbiamo esempi, purtroppo, per esempio, non solo in Italia, molti ricorderanno per esempio una sentenza della Suprema Corte tedesca che aveva attribuito a un cittadino italiano, sardo in particolare, un attenuante nel delitto di stupro perché veniva da una nazione dove, da una regione dove la donna viveva un ruolo sottomesso. E quindi, come vede, l'idiozia travalica i confini nazionali. Ma anche perché poi non so chi gliel'abbia detto a quel giudice in Germania. Assolutamente sì, poi bisognerebbe andare a vedere se nelle regioni oltre Alpe questa consuetudine, questo asserito modo di pensare non sia ben più radicato che non in Italia. Ma ci sono altri episodi, come per esempio il maltrattamento di un minore per ragioni religiose. Se il maltrattamento al bambino e le correzioni, ricordo per esempio il caso del nostro concittadino che in Francia è stato sottoposto a un procedimento penale perché avrebbe dato uno schiaffo al proprio figlio. Beh, qui in Italia c'è stato chi è stato assolto perché il figlio era stato picchiato selvaggiamente per motivi religiosi, oppure... Ecco, voi avete intitolato quel capitolo, ironicamente, prendere a schiaffi il tuo figlio puoi se è infatto in nome di Dio. Cioè, esatto, questo è il... esatto. Oppure se il reato fa parte della tua cultura, no problem, commettilo pure, era un reato di accattonaggio. Sì. Allora, qui c'è una distinzione. Se uno vive di accattonaggio perché l'accattonaggio fa parte della tua cultura, questo non è reato. Se uno si trova in situazione di indigenza e quindi, no, meglio, non è reato, non è perseguibile in ogni caso dal punto di vista sanzionato. Se invece uno fa, va agli angoli della strada a chiedere la carità perché non ha più la possibilità di far fronte alle proprie esigenze per vari altri motivi che non siano parte della, virgolette, sua cultura, può essere condannato. Ecco, però alla fine mi viene da pensare che in Italia tutti hanno ragione. Vero, torniamo al discorso che le ho detto prima. E per prima la nostra Corte di Cassazione, che spessissimo in genere la convinzione, anche negli stessi legali in buona fede, di avere di fronte per le mani un caso a proprio favore. Perché? Perché ci sono una nutritissima serie di sentenze favorevoli e di sentenze assolutamente diametralmente uguali al contrario. Quindi abbiamo tutti ragione, poi alla fine insomma, il giudice che decide, cioè, siamo lì, insomma, nelle sue mani, no? Perché capisco sì. Che da entrambe le parti, i due avvocati, di parte e controparte, ci sono elementi per aver ragione. Poi ci sono casi più chiari, immagino, e grazie al cielo anche, e casi invece sul filo di lana, del rasoio. Ma, assolutamente d'accordo. Ma vede, per esempio, l'opinabilità del giudizio poi è una cosa legata alla condizione umana. Per esempio, se io oggi le dessi coram populo davanti a tutti dello stupido e dell'ignorante. Sì. Quanto varrebbe questo insulto? 3.000 euro, dico bene? Potrebbe essere, ma potrebbe essere anche molto di più. Ecco, vabbè, me lo dica allora, che io ci provo. Lei poi è avvocato, quindi ho paura che perderò, però insomma, lei ci provi. Pure il giornalista è nella hit parade dei risarciti, così come qualche magistrato. Se fosse, un operaio, un avvocato, un ecco, meccanico... E poi c'è anche questo, che trovo ingiusto, perché alla fine l'equilibrio non c'è, no? Perché comunque è successo a Franca Rame, perché aveva dato del Pirla a esatto. Castelli, se non mi sbaglio, e ha dovuto risarcirlo con 3.000 euro, esatto. Dico bene, ecco. Esatto. E vabbè, che poi Pirla a Milano, insomma. Allora, Marco Bussagli, buona domenica. Salve. Allora, non si può, parlando di paradossi, non si può non parlare di Escher, perché era un litografo Escher Bussagli, e un incisore sì, era. Escher è uno straordinario artista che si è dedicato fondamentalmente alla xilografia, alla litografia, all'incisione in genere. È un artista olandese che tra l'altro amava moltissimo l'Italia, perché è vissuto da noi dal 1922 al 1935. Si è sposato a Viareggio con una svizzera, però insomma è vissuto qui, e si è dedicato a un tipo di arte che è abbastanza esclusivo. Diciamo, lui parlava di sue visioni interiori, sono un percorso molto complesso di creatività, e per orientarsi un pochino nell'ambito dell'universo di Escher, perché lui ha prodotto 2.100 opere, quindi insomma una cospicua produzione, noi possiamo sostanzialmente dividere i suoi paradossi in cinque categorie, nel senso che ci sono quelli che sono legati alla forzatura della percezione visiva, cioè quell'ambiguità di percezione, ce n'è uno in particolare che si chiama concavo-convesso, per cui c'è un'incisione molto bella nella quale sembra che da una parte ci sia una visione vista dall'alto, con dei personaggi che scendono, delle scale, una cappellina, eccetera. Gli stessi elementi uno li trova dall'altra parte. Che salgono invece, ecco. Credo che sia un po' come anche la fontana infinita, no? La cascata infinita, dove sì, l'acqua sì, continua la a scendere, sì, ma sale anche. Ecco, per la cui... cascata appartiene però a un'altra categoria, se possiamo dire, che sì. È quella dei cosiddetti oggetti impossibili. Cioè quegli oggetti, la definizione è di Zenner culpa, e sono quegli oggetti che geometricamente sembrano coerenti, poi in realtà non possono esistere, se uno li va a costruire ci devono essere delle aberrazioni totali, per cui sembra che una cosa sta avanti e dietro contemporaneamente. La cascata è proprio uno di quelli, il famoso Belvedere, dove c'è un ometto che tiene in mano tra l'altro proprio il cubo impossibile, perché è un cubo che ha la faccia di sotto e la faccia di sopra che si vedono contemporaneamente sotto e sopra, quindi abbastanza. Io invito anche gli ascoltatori, ecco, mi scusi, a andare su internet e cercare Asher Waterfall, che sta appunto per cascata, sì. Perché ci sono dei ragazzi che hanno ricostruito, sì, e non si sa bene come abbiano fatto, perché le risposte ci sono anche in rete, ma non sono totalmente vere, mancano comunque degli elementi per capire come abbia fatto a ricostruirla fisicamente. Si vede proprio la cascata di Asher con l'acqua che scende, tra virgolette, per poi salire e riscendere contemporaneamente, quindi una sorta di cascata infinita. E come mai Asher si è appassionato a questo? Lui aveva le televisioni, però doveva aver fatto degli studi anche matematici di prospettiva molto importanti per arrivare a quello che ha fatto. Lui ha fatto degli studi molto seri, molto approfonditi, sì. È partito dalle osservazioni da un viaggio in Spagna, è andato all'Alhambra in particolare, sì. E è partito dall'osservazione di questi straordinari mosaici, è un termine non perfettamente proprio, perché mosaico non lo intendiamo a tessere piccole, invece lì si tratta di superficie di maiolica stuccate insieme, che costituiscono delle forme di decorazione tipicamente islamiche, ma estremamente suggestive. Partendo da lì, lui ha cominciato a studiare la divisione regolare del piano, che è uno dei problemi geometrici reali, cioè dell'ambito della geometria euclidea, e ha praticamente messo insieme tutta una serie gli elementi per poi arrivare a quello che ha prodotto. Io devo salutare, dottore, perché c'è il GR, voglio ricordare però il dossier d'arte Asher per Giunti Editore, che lei ha curato e scritto, e la ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie, buona domenica. C'è il GR e poi continuiamo a parlare con l'avvocato Martinez e con i nostri altri ospiti, e se avete dei paradossi da suggerirci fatecelo sapere via SMS e poi vi insegneremo anche a costruirli. Il riposo del guerriero. Sono le 11:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Vi ricordo più tardi alle 11:45 circa, Manè in 24 minuti, sta di portarvi a casa i biglietti per l'ingresso alla bellissima mostra a Venezia, Palazzo Ducale. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24, dovete associare le canzoni che vi faccio ascoltare al titolo di un'opera dell'artista. Noi oggi stiamo parlando di paradossi, siamo partiti da un libro, Quando il diritto va a rovescio, sono riflessioni semiserie sull'involontaria, io l'avrei messo fra virgolette, comicità della legge, Marco Martinez. Non, è vero che è involontaria, però a volte sembra quasi di no. Allora, volevo raccontarvi un fatto che voi avete citato nel vostro libro, avvocato, che è proprio che riguarda voi, è vero perché l'avete citato, ma mi fa veramente ridere. Insomma, a Milano, in Lombardia comunque, hanno fermato un avvocato di 34 anni e l'hanno trovato positivo all'etilometro, vero? È vero, è una notizia che è balzata agli onori delle cronache, ai noi. È veramente un paradosso nel vero senso della parola questo, perché... Sì, ma ne sono successe alcune purtroppo. Ma lì poi come si fa? Adesso spieghiamo agli ascoltatori. È successo questo. La persona fermata aveva diritto a un avvocato in quel momento. Siccome era così ubriaco che non poteva chiamare nessuno, gli è stato dato l'avvocato d'ufficio. Ma l'avvocato d'ufficio era lui. Esatto, in realtà il sistema che prevede la nomina del difensore d'ufficio immediatamente è quando il call center, che è per distribuire equamente, sì, gli incarichi, ha fornito il nome dell'avvocato da indicare prontamente, è risultata coincidenza tra il fermato, l'imputato, l'indagato e il difensore. Ecco, ma a questo punto, al di là che fosse ubriaco o meno, non avrebbero dovuto comunque assegnargli il secondo in elenco, in automatico, perché non penso che uno possa essere avvocato di se stesso, è possibile in Italia? Assolutamente, essere avvocato di se stesso è possibile, non quando però ovviamente la persona non è compo suo, insomma, sì, non è in questo caso attendere alle proprie necessità, nemmeno quelle più elementari della difesa immediata. Però noi stiamo crocifiggendo solo l'Italia, dottore. No, perché? Ma perché c'è? Ma le spiego. Lei non sa quanti messaggi sono, adesso non li ho letti, sì, gli SMS. Però voglio confortare gli ascoltatori, dottore, perché insomma, leggi come quelle nell'Alabama che dicano non si può assolutamente guidare bendati. Ho capito, ma è vero, però è un po' posso dire che è un po' diverso, perché quelle sono norme, chiamiamole così, dettate anche dal buon senso, che sono nate da qualcuno che un giorno si è messo in strada e ha cominciato a guidare bendato, ovviamente facendo danni, e quindi hanno dovuto mettere la norma. Perché però quelle sono norme, le nostre, mi permetta, ma sono è un po' diverso, ho ragione. Assolutamente d'accordo con lei, è chiaro che volevo un attimino così portare qualche croce anche oltre. Ma sì, oltre facciamolo, Cortina, facciamolo, sì, però noi in questo momento sta facendo arrabbiare l'Italia, capito? Guardi, questo, in questo... se per quello vi do una cosa di questi giorni, dove veramente una collega, una sì. compagnia d'assicurazione francese per un omicidio colposo mi ha incaricato di seguire la pratica, e quando io ho comunicato dopo anni di più o meno velati insulti da parte della collega sul nostro sistema giudiziario, ho comunicato, finita la fase penale, il rinvio della prima udienza civile che è davanti al nostro foro, che non è un foro grandissimo, però il rinvio è stato fatto al 30 giugno del 2014. Sto parlando di una causa che è stata trattata 2 mesi fa, quindi 1 anno e 2 mesi di attesa. E la collega mi ha scritto dicendo: guarda, avvocato, probabilmente la ringrazio per la puntualità dell'informazione, ma deve aver fatto un piccolo errore, perché mi ha scritto 30 giugno 2014 mentre ritengo debba essere 30 giugno 2013. Voi non vi nascondo che ho avuto un certo imbarazzo nel rispondere alla collega che, ahimè, non si trattava di un refuso, ma della dura realtà. Perché le cose poi stanno così, le ripeto, stanno arrivando moltissimi sms che si lamentano appunto per un fatto o quell'altro. Poi, se vogliamo andare in Minnesota, dove mordere qualcuno, e se qualcuno morde qualcun altro è colpevole di aggressione, fin qui ci siamo, ma se questo qualcuno a mordere dovesse avere la dentiera è un aggravante, perché la dentiera penso che possa rimanere impigliata, e allora non so perché è un aggravante, ma così è. Ma questo, ripeto, ma lei dovendo fa io così a sentore preferisco il sistema italiano, anche se più complesso, che quello e invece anglosassone, dove e non solo anglosassone, dove invece sono le sentenze a fare mano a mano le leggi. Lei è d'accordo con me, ecco, no, è una, solo una sensazione, ma l'ho detto così semplicemente, cercando di capire. Purtroppo effettivamente poi spesso nell'ansia anche di essere forse eccessivamente precisi e garantisti, per carità, sono due doti eccellenti, però quando vengono così, ecco, applicate in dose eccessiva, cioè ci vorrebbe il famoso buon senso, no? Esatto, spesso esatto. Però anche questo buon senso andrebbe in qualche modo definito nel vero senso della parola. Claudio Nutrito, buona domenica. Buona domenica. Oscar Wilde diceva: non leggo mai libri che devo recensire perché non vorrei rimanerne influenzato. Chiaramente sì. È un vero paradosso, è il paradosso dei paradossi forse. Perché come fai a criticarlo se non lo leggi? Ecco, però chissà se lo faceva veramente, se non leggeva sul serio, non si sa. E stiamo parlando del tuo libro che è Sono modesto e me ne vanto, non sensi e controsensi e paradossi apparenti. C'è un paradosso che a te piace in modo particolare fra i tanti che hai citato nel libro, Claudio? Beh, uno in particolare no, ce ne possono essere. C'è per esempio quello di Groucho Marx che dice: il mio motto è discrezione, io non dico mai nulla, anche sul mio biglietto da visita non c'è niente di scritto. Poi ce n'è un'altra di André Frossard, dice: settimana orribile, nessun sondaggio d'opinione, pazienza, cercheremo di indovinare da soli quali sono le nostre idee. Beh, certo, che questo non so quanto sia paradossale, più che altro sì. È un comportamento. Che beh, non è, certo, è sempre apparente il paradosso. Pablo Picasso diceva: mi piacerebbe vivere da povero con un sacco di soldi. Sì, ecco, sì. Sarebbe, piacerebbe a tutti, penso. Questo. Certo. Allora, Claudio, abbiamo veramente pochissimo tempo. Io volevo chiederti come possono fare gli ascoltatori per costruire i propri paradossi. Sì, sì. Ma dunque ci possono essere vari metodi. Per esempio, a un certo punto si prende una di queste frasi, di questi aforismi paradossali, e si cerca di individuare qual è il meccanismo col quale questo paradosso è stato costruito, poi si tenta di utilizzare questo meccanismo per creare un nuovo paradosso. Per esempio, l'attore americano Dylan Brody ha detto: sono d'accordo nel far dire le preghiere a scuola purché venga trovato un posto per l'algebra in chiesa. Ecco, questo meccanismo io l'ho catalogato come la reciprocità paradossale, e allora ecco che potrebbe saltare fuori con questo schema un'affermazione di questo genere: sono favorevole alla vendita dei farmaci nei supermercati a patto di trovare il banco del pesce fresco in farmacia. Oppure ancora, sempre con questo meccanismo, su ogni treno dovrebbero esserci dei poliziotti. Naturalmente in tutti i commissariati di polizia dovrebbe essere garantita la presenza di un capostazione. Certo. Ecco, questo può essere un metodo, un sistema, sì. Un altro, ad esempio, che ho denominato Neanch'io, ecco, Neanch'io nasce prende spunto da una canzone famosa francese del 69, scritta da Serge Gainsbourg e interpretata in coppia con Jean Berkin e Brigitte Bardot, che la parola, la parola chiave il refrain diceva: c'è una voce femminile che dice je t'aime, e la voce maschile che dice moi non plus, che praticamente significa io t'amo, risposta neanch'io. Quindi è un curioso gioco di parole dove con una risposta apparentemente contraddittoria, che è neanch'io, l'uomo mostra di non credere alle parole della donna. Allora, con questo meccanismo si può costruire, per esempio, potrebbe essere una risposta così abbastanza sagace, allorché quando si dubita di quello che qualcuno ci viene detto, ci dice. Per esempio, quando viaggio dormo sempre in hotel a 5 stelle, risposta, neanch'io. Ho una vita sessuale molto attiva, neanch'io. Parlo perfettamente quattro lingue, neanch'io. Ecco, questo può essere un altro meccanismo. Allora, Claudio, ti ringrazio, voglio ricordare il libro Sono modesto e me ne vanto, non sensi, controsensi e paradossi apparenti, edito da Stampa Alternativa, e ci sono aggiornamenti sul traffico. Grazie, ciao, buona domenica. Invito gli ascoltatori a inviare i loro paradossi al 349-238-6666 o sulla pagina di Facebook. Il riposo del guerriero. Martinez, ecco, certo che anche voi avvocati non siete immuni dai paradossi e qualche strafalcione. No, assolutamente. Purtroppo ci capita di vederne e sentirne tutti i giorni, o di leggerne molto frequentemente. Signor Presidente, non insisto più, affidiamoci alla filosofia. Se son fiori, fioriranno. È anche vero, cioè giusto. Le rose del resto sono solo un tipo di fiore. È vero. In realtà poi, insomma, spessissimo queste battute o queste sfuggi di eloquenza mal riposta sono persi nell'ascolto distratto delle arringhe dei colleghi in attesa che il proprio processo venga chiamato. Però se si ascolta con molta attenzione ci sono purtroppo un florileggio di esempi. Ne abbiamo riportato parecchi, in realtà poi anche attingendo ad altra bibliografia. Ricordo che un collega disse: c'era una tensione al color bianco tra i coniugi, oppure sul primo capo di imputazione nulla questua. Ovviamente, che non vuol dire, certo, no, che certo, non ha proprio senso. Posso dire che l'uomo risulta dedito alla microcriminalità, oppure non c'è dubbio, visti gli articoli esponenziali del codice civile. Io devo dire che quello che ho preferito, racconto gli ascoltatori, è questo: un difensore che dice: credetemi che io sono assolutamente certo che l'imputato, totalmente immune da qualsiasi precedente penale, si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. Quindi è stato condannato per forza alla fine l'imputato, perché l'avvocato lo ha condannato con questa frase. Quindi, assolutamente sì. Ma le posso dire che stessa sorte ha subito un caso che è capitato personalmente a me, dove si trattava di un gentile scambio di opinioni tra il mio cliente e la controparte. Sì. Questo signore con una pala ha praticamente aperto il cranio del mio assistito. Nella arringa difensiva il collega ha sostenuto, pensavo stesse scherzando anche il giudice, ma poi dopo quando lo ha condannato, ha sostenuto che il mio cliente si è ripetutamente scagliato con violenza sulla pala che il suo cliente teneva brandita per... Io non ci voglio credere ovviamente a questo. Assicuro... No, certo che ci credo, cioè certo che è vero, non mi sta dicendo una fandonia, però non ci vorrei credere, dico solo questo. Purtroppo... Cioè si fa di tutto, va bene da un certo punto di vista per difendere, però insomma nel limite anche del buon senso e comunque del non prendere per cretini gli altri alla fine della fiera. Io volevo chiudere con lei, avvocato, se mi permette, con una questione un pochino più seria. In fondo è sempre un paradosso anche questa. Succede che quando si va da un avvocato penalista, in questo caso, chi ha commesso chiamiamolo il delitto, no, il fatto, non dica la verità al proprio avvocato. È un po' un paradosso, no, questo, perché cioè si difende se stesso a se stesso e quindi anche all'avvocato, non dicendo la verità, e l'avvocato quindi in questo modo ha difficoltà nel difenderlo, anche perché si trova di fronte poi a situazioni che non conosceva. Perché succede questo? Perché succede, no? Spesso. Ma guardi, succede a parte molto molto spesso, a parte casi conclamati come un cliente che venne da me per esempio con le mani sporche di sangue, il coltello in tasca, e fu una situazione abbastanza concitata. Lui sosteneva comunque di non aver avuto niente a che fare con e lì proprio c'è la prova provata in che mano, sì. la famosa pistola fumante, insomma. Esatto, però sai, è un banco di prova l'avvocato. Sostanzialmente il cliente che vada dall'avvocato e riesca a convincere l'avvocato, che stupido non è, nel quale ripone fiducia, della propria innocenza, della propria tesi difensiva, e si sente evidentemente un passo avanti. C'è chi lo fa in buona fede, c'è chi lo fa in mala fede, ma raramente entrano negli studi degli avvocati clienti colpevoli. Poi l'avvocato ovviamente si fa tra sé e sé una convinzione. Moltissimi mi dicono: ma avvocato, ma come fa lei a difendere una persona che lei sa benissimo che è innocente, che è colpevole? Beh, intanto, proprio in virtù di quello che dicevamo, ben difficilmente arriva un cliente che si dichiara colpevole, è un'ipotesi proprio assolutamente marginale. E poi in ogni caso, insomma, siamo nella patria del diritto. Vabbè, ah, certo, servite anche a cercare di far prendere la pena minore possibile, esatto, poi il senso è quello lì, certo. Le attenuanti, perché ci possono essere, esatto. Sicuramente. O comunque verificare che ci sia una correttezza processuale, perché spesso anche la correttezza processuale da parte degli organi che amministrano la giustizia manca può mancare, manca, insomma, manca o è applicata molto superficialmente. E quindi è giusto che ci sia, infatti, in questo senso. Però insomma, io dico, dite la verità, perché se no l'avvocato davvero non vi può difendere in nessun modo, è molto difficile. Ma è la cosa più logica, che però le assicuro spessissimo. Per questo lo ritenevo il paradosso più grande, no, di tutti, alla fine, il non dire la verità all'avvocato, c'è la persona che ci deve difendere. Antonello e Marco Martinez, quando il diritto va a rovescio, riflessioni semiserie sull'involontaria comicità della legge. Ne abbiamo parlato di una parte del libro che è ricco invece di tanti altri spunti davvero interessanti, comici da una parte ma drammatici dall'altra. È molto molto triste, la ringrazio. Grazie a lei, avvocato. Sperling Edizioni, è il momento della nostra glottologa per parlare ovviamente di paradossi. Delle api? Se vi farò sapere le api, certo, come no, grazie. Buona domenica a tutti. Buona domenica, c'è Francesca Dragotto. Reason cold in ancient use of. Senti chi parla. Parla la nostra Francesca Dragotto. Ciao Francesca, buona domenica. Buongiorno Stefano, buona domenica a te e a tutti. Noi non partiamo dai paradossi di Zenone, non credo, almeno, anche se tu avresti voluto tanto partire da lì. Beh, Almeno Achille e la tartaruga, però appunto non lo faremo, e quindi dopo aver ringraziato chi va a leggere tutte le settimane i post che scrivo su Tuttopoli, anche se non sempre mi ricordo di citare il blog, per fortuna che lo fai tu, ti ruberò 30 secondi per rispondere a una serie di mail che mi sono arrivate, perché mi è stato fatto notare che all'inizio dell'anno Senti Chi Parla aveva acquisito una fisionomia differente, facevamo analisi della comunicazione per lo più di personaggi politici. Poi ci sono state le elezioni e abbiamo dovuto interrompere, esatto, questa cosa. E dopo la par condicio abbiamo continuato a fare lo stesso lavoro che facevamo negli scorsi anni, ovvero trovare sempre un legame, cosa di per sé estremamente stimolante, tra la lingua e l'argomento di cui di settimana in settimana il Guerriero si occupa. Quindi questa è stata l'unica ragione per cui abbiamo abbandonato la formula del Senti Chi Parla settembrina, però ecco, potrebbe essere l'occasione per rilanciarla e per invitare gli ascoltatori a segnalare personaggi, non necessariamente politici, ma comunque personaggi mediatici da analizzare nelle prossime puntate. Beh, noi quindi invitiamo gli ascoltatori a farlo, a segnalarli, così poi Francesca cercherà di analizzare il loro modo di parlare. Arriviamo invece al paradosso. È vero che i politici spesso usano anche il paradosso per esprimersi. Il paradosso è un argomento di cui è tutt'altro che facile parlare da un punto di vista linguistico, e ciò nonostante l'abuso che si fa dell'espressione "è paradossale che", di uso estremamente comune nella nostra lingua. Come hai detto in apertura di collegamento, dovremmo infatti ripercorrere la genesi e soprattutto indagare il contesto che ha originato il paradosso filosofico per capire invece in quali contesti sarebbe più corretto utilizzare questa espressione. E non è quello che intendo fare, perché vorrei indulgere ad alcune considerazioni relative alla lingua dell'uso contemporaneo, dopo aver ricordato, cosa che è stata già fatta, però dopo aver ricordato che costituisce paradosso ciò che va contro la doxa, cioè l'opinione comune, ovvero ciò che mostra indizi di scarsa verosimiglianza e che per questa ragione risulta difficile da credere. Ed è proprio infatti la difficoltà di credere, il fatto di trovarsi al limite di quanto si potrebbe ragionevolmente ipotizzare, ad essere alla base delle accezioni comuni del termine. Noi utilizziamo paradosso, o l'espressione è paradossale che, affiancando usi ancora abbastanza aderenti al significato originario, numerosi impieghi in cui invece paradosso o paradossale prendono il posto di altri termini, ed è su questo che mi voglio concentrare. Accade infatti che una persona o un personaggio paradossale è colui che mostra segni di bizzarria, magari per come si esprime, perché è spregiudicato, appunto bizzarro, oppure che venga etichettato paradossale colui che invece è stravagante. È paradossale, permettetemi il gioco di, adesso giocherò io con le parole, che a fronte dell'abuso di paradosso scarseggino invece gli usi di paradossare, che letteralmente significa dire paradossi, oppure paradossista, una parola che non usa quasi nessuno, che invece è attestata nella nostra lingua, che la mette a disposizione dei propri utenti e che significa chiama paradossi chi li ricerca. È invece impiegato, però in un ambito ristretto, quello dell'antropologia, paradossia. La paradossia potremmo renderla con la propensione al miracolismo. Capiamo anche la ragione della sovrapposizione con il paradosso, tra paradosso e miracolo, perché in entrambi i casi andiamo al di là di quello che normalmente siamo abituati ad attenderci dalla realtà. Però non voglio stravagare ulteriormente, perché vorrei dedicare l'ultima parte di questa brevissima riflessione paradossista, continuo a giocare con col paradosso linguistico, perché è paradossista chi ama appunto e ricerca paradossi, a considerare un altro uso del termine, quello per cui paradosso è sinonimo di colmo, la battuta che si fonda sul gioco di parole ancorata all'esperienza o alla conoscenza di una pratica. Colmo letteralmente significa punto più alto. Nell'espressione "è il colmo" indichiamo qualcosa che va al di là di ciò che ci si potrebbe aspettare, ed ecco, è qui il legame con il paradosso, perché anche il paradosso è un qualcosa che va para, contro, oltre. Ma colmo lo utilizziamo anche nell'espressione "è il colmo per", seguito da un sostantivo che solitamente si pone in relazione con qualcosa di sorprendente. Allora prendiamo il caso del falegname. Quali sono gli strumenti di cui il falegname si serve nel suo lavoro? Segue un elenco: la sega, il cacciavite. Uno in particolare però si offre come utile spunto per un gioco linguistico, la colla. Quale potrebbe essere allora il colmo per un falegname? Avere una moglie scollata, dove scollata non ha a che fare con la colla, bensì col collo. Questo è il principio del gioco, che da sempre solletica la fantasia di adulti e bambini, ma non voglio mettere il colmo allo staio, non voglio esagerare, non voglio andare oltre la misura, perciò vi lascerò con un colmo a cui dovrete rispondere andando a scrivere sulla pagina Facebook del Guerriero o su tuttopoli.com. Il colmo è questo. Qual è il colmo per un pescatore? Lasciamoci con questa domanda. Grazie Francesca Dragotto, a domenica prossima. A domenica. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Per quanto riguarda i giochi, abbiamo degli annunci da fare oggi, anzi un annuncio solo. Ciao Andrea Ligabue, il nostro e vostro, anche ludologo, è l'unico in tutta Italia, per cui l'abbiamo preso noi. Ciao Andrea. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Allora, perché c'è una manifestazione molto importante, comincia domani. Sì, esatto, domani è la giornata in cui vengono assegnati, diciamo, i due maggiori riconoscimenti mondiali a livello sul gioco da tavolo. Sono lo Spiel des Jahres, sia nella versione classica che quella per giocatori esperti. La particolarità di quest'anno è che per la prima volta negli ultimi 10 anni c'è un gioco di un autore italiano in lizza, e non vorrei portargli sfortuna, ma dicono anche che sia uno dei favoriti. Il gioco si chiama Augustus ed è di Paolo Mori, che è un autore di Parma. Lui si troverà a concorrere con Hanabi, che è un gioco di Anton Bauzat, che è l'autore di Seven Wonders, ed è un collaborativo molto strano e particolare, un giorno poi ve ne parlerò, e anche con Quix, che invece è un gioco basato su una meccanica di dadi di Stephen Bendorf. Non diciamo niente per quanto riguarda il nostro autore italiano, e poi vedremo come andrà a finire e ce lo dirai tu la settimana prossima. Grazie Andrea Ligabue. Ciao Stefano, buona domenica a tutti. E parliamo adesso di videogiochi. I videogiochi sono straordinariamente belli, sono cultura, come ho sempre detto e sostenuto ormai da molti anni, e i videogiochi sono un grande sforzo creativo che va pagato, cioè bisogna retribuire questo sforzo creativo. La rete è comodissima, è un modo straordinario anche per giocare, ma non è un modo per passarsi i giochi senza pagarli. Lo dico perché la ESBI, che è l'Associazione degli Editori Sviluppatori Video Giochi Italiani, ha promosso una campagna da poco partita, si chiama All for Games. Tre sviluppatori italiani con una serie di video cercano di far capire che cosa succede dietro la creazione e la preparazione di un videogioco, per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica e i videogiocatori soprattutto, anche quelli occasionali, sul fatto che insomma, produrre significa molto, non solo da un punto di vista economico, anche ovviamente, soprattutto forse, ma anche dal punto di vista umano. Gianmarco Zanna, ciao, buona domenica. Buongiorno Stefano e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Allora, Gianmarco è producer di Ubisoft Milano, chiaramente è uno dei tre sviluppatori e coordinatori che hanno pensato di mettere in piazza la loro faccia, la loro immagine, le loro parole per sensibilizzare il pubblico sul fatto che ho appena raccontato. E scusami se faccio ancora una premessa, Gianmarco, ma mi viene in mente un parallelismo: la musica. Io sono di quella generazione che era abituata a vedere la musica sugli album, quindi il vinile, e quindi quando compravi un album vedevi la copertina, c'erano le fotografie, leggevi ogni cosa che era relativa a quell'album, anche che la produzione era minore di quella di oggi, e poi rendevi fisico, diciamo, il prodotto e te lo godevi, e quindi lo pagavi volentieri perché avevi in mano qualcosa. Oggi la generazione degli MP3 ha in mano la musica, ma di materiale non c'è nulla, e quindi sembra di comprare niente quando compri un file. Dico bene, Gianmarco? Ma guarda, secondo me dici bene, ma credo che questo sia dovuto al fatto che io credo di appartenere alla tua generazione. Sono ancora abituato a vedere il videogioco come qualcosa di fisico, come una cosa che si può acquistare, collezionare e mettere in bacheca. Ma sarà sempre meno così, perché ormai anche i videogiochi arriveranno in quella fase ormai vicinissima in cui non si acquisteranno quasi più nei negozi, ma si scaricheranno direttamente dalla rete, pagandoli ovviamente. Sì, siamo molto vicini a questa nuova era. Sicuramente ci saranno sempre delle persone, sì, che vorranno anche supporto fisico, ci saranno delle nicchie di persone che si interesseranno a quelle che sono magari edizioni da collezione, però è vero che il digital delivery sta prendendo sempre più piede e rappresenta quello che sarà il mercato dei videogiochi, ma dell'intrattenimento in generale entro pochi anni. Ecco, siccome il problema della pirateria è grandissimo, perché la perdita economica è veramente ampia, io voglio ricordare che più c'è pirateria in questo senso e meno ci può essere qualità nella produzione, perché ovviamente mancando i soldi non si può produrre e quindi la qualità tenderà a scendere se si continua in questo modo. La vostra idea è stata quella di cercare di far appassionare i videogiocatori del vostro mondo, cioè far capire quanto sforzo c'è dietro ogni titolo. Sì, esatto, è proprio per questo che abbiamo deciso di metterci la faccia, chi ce l'aveva bella e chi ce l'aveva brutta, come nel mio caso, però era proprio per cercare di far capire alle persone che dietro un videogioco non ci sono semplicemente delle multinazionali che producono questo genere di intrattenimento, ma delle persone, come tutti, dei lavoratori che passano parecchie ore e anche nottate, se è il caso, in ufficio, proprio per dare forma a quelli che sono i loro sogni, quello che è il loro lavoro. Tu dicevi che la pirateria è un fenomeno grandissimo, è vero, è grandissimo, però prima ancora secondo me è tristissimo, perché tu dici la pirateria sicuramente comporta un decadimento della qualità, e hai ragione, e non solo, più i giochi vengono piratati, più il mercato si restringe e più le grandi case produttrici si limiteranno a fare i giochi, sempre quelli più grossi, quelli che vendono di più, ma la varietà andrà a contrarsi e quindi se andiamo avanti di questo passo, diciamocelo chiaramente, non vedremo più quei piccoli giochi, piccoli ma interessanti, che sono giochi diversi dalla massa, che invece sanno appassionare le persone, che rappresentano sicuramente un valore aggiunto a quello che è il divertimento interattivo. Ecco, tu che non so quanto conosca i numeri, ma noi siamo ancora pecore nere per quanto riguarda gli italiani in questo senso? Purtroppo sì, è una cosa di cui non possiamo andare fieri. I numeri me li hanno aggiornati poco tempo fa, sì, e ho preferito dimenticarli perché, come forse tu saprai Stefano, noi siamo stati inseriti nella watch list nera dei paesi con il più alto tasso di pirateria al mondo. Siamo ancora in quella lista, ma non è semplicemente una lista che dice gli italiani adorano piratare giochi piuttosto che musica e quant'altro, è anche una lista che impedisce a tante altre società sparse nel mondo di investire in Italia. Cioè veramente noi con la pirateria ci facciamo del male, ma non solamente facciamo del male all'industria dei videogiochi, che oggi è ancora una piccola realtà in Italia, facciamo del male a quella che è proprio l'occupazione, l'impiego in Italia, nel nostro paese. Stiamo bloccando investimenti dall'estero perché non siamo ancora capaci di dire no alla pirateria. Ed è una cosa veramente triste, per quello che io utilizzo il termine triste, è grande ed è tristissimo. Io sono d'accordo con te Gianmarco, ovviamente, e lo penso seriamente, perché è un fenomeno da contrastare davvero. E secondo te gli italiani amano piratare, visto che siamo tra i primi nella classifica, siamo nella lista nera, perché considerano il prezzo dei videogiochi troppo alto oppure semplicemente perché si ritengono più furbi? Perché noi abbiamo un po' questa cosa della furbizia, no? Ti ho fregato, non l'ho comprato. Beh dai, noi italiani comunque siamo più furbi, comunque questo è un dato di fatto, secondo me siamo il popolo più bello del mondo. Però forse probabilmente il prezzo rappresenta una motivazione, un incentivo, ma a volte, e questo è paradossale, a volte si ricorre alla pirateria per pigrizia. Talvolta è più semplice cliccare il pulsante su uno schermo di un PC piuttosto che andare in un negozio ed acquistare un gioco. E attenzione, sembra veramente un controsenso, ma ecco, quindi in questo senso il digital delivery, cioè la possibilità di cliccare comprando e avere il videogioco immediatamente disponibile, tu dici quella potrebbe essere un buon modo per contrastare almeno l'atteggiamento di chi è pigro. Bravissimo, secondo me infatti questo potrebbe essere sicuramente uno sbocco per le persone che lo fanno per pigrizie, sono ancora tanti. Vedremo allora che cosa succederà. Io spero che voi vi appassioniate al mestiere, appunto, dei tre volti, ma non sono soltanto tre, ce ne sono veramente tantissimi in tutto il mondo, ma i tre italiani che raccontano la loro esperienza in questi video. Il sito è all4games.it, dove 4, che sta per 4, è scritto in numero, quindi all4games, per dirla come è scritta in italiano. Gianmarco, io non posso che dire in bocca al lupo e speriamo che a ESVI in questo modo e voi abbiate intrapreso la strada giusta, e vedremo un po' come saranno i numeri l'anno prossimo, speriamo di non rimanere nella lista nera. Speriamo. Io saluto tutti, saluto te, saluto gli ascoltatori e vi saluto dall'ufficio perché stiamo finendo un gioco e quindi anche la domenica si lavora, giusto per rinvigorire i concetti. Sì, mettiamo bene i puntini su lei infatti. Grazie ancora, ciao Gianmarco Zanna, buona domenica. Grazie mille, ciao Stefano, altrettanto. Le suggestioni del gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Quali suggestioni ci suggerisci oggi? Ma oggi vi suggerisco delle, diciamo, suggestioni estive molto leggere, a cominciare da un tonno particolare, non un tonno fresco, ma in questo periodo si mangia, cioè il tonno in scatola a largo uso in questo momento, magari con i pomodori oppure anche con dei fagioli freschi, questo insomma nel periodo giusto. E io suggerisco un tonno che ho trovato recentemente, che si chiama Antiche Tonnare di Sardegna di Buggerru. E devo dire che questa piccola azienda di Buggerru, appunto Sardegna, mi sembra ovvio specificarlo, anche se Buggerru il nome già indica quella regione. Sì, direi di sì. Ha varie tipologie, nel senso che ci sono varie parti del tonno, e io ultimamente ho assaggiato il tarantello, che è forse la parte più difficile da individuare. Io una volta mi sono fatto anche indicare, mentre diciamo veniva così lavorato un tonno, per capire dov'è il tarantello proprio sta in mezzo a il filetto e la parte inferiore, quindi è difficile da essere compreso, però devo dire che è la parte più squisita del tonno in assoluto, la più, se vogliamo, la più morbida, ma anche quella più sapida. Il tonno ha tantissime parti, noi ne conosciamo molto poche, però diciamo, se uno facesse un po' così l'analisi delle parti del tonno, veramente ce ne sarebbero una decina da dover raccontare. Tra l'altro il fatto interessante è anche questo, che forse tarantello si chiama ovunque alla stessa maniera, ma le altre parti differiscono ad esempio dalla Sicilia alla Sardegna, perché il tonno ha un suo linguaggio locale, anche se è un pesce di mare. Bene, perché sicuramente anche i pesci in ogni parte d'Italia, così come i tagli di carne, si chiamano in maniera diversa e in molti casi sono gli stessi. Questa è la prima segnalazione. Poi, visto che siamo al periodo veramente estivo, io voglio segnalare due gelaterie in Sicilia. Due gelaterie in Sicilia completamente diverse. Una microscopica, sì. E ci vuole un po' per trovarla, però lo consiglio di andarla a cercare. A Santo Stefano di Briga, in provincia di Messina, al bar Gelateria De Stefano, come dicevo sono quattro case in questa piccola frazione, però vale la pena, credetemi. Bene, fanno pochissime varietà di gelato, le più importanti sono le more di Gelsi e le pesche tabacchiere, da cui fanno la granita, e sui gelati, il gelato di torrone e quello di caffè, secondo me sono tra i quattro quelli così da segnalare, e sono i più interessanti. Anche la mandorla, che usano la pizzuta d'avola, è interessante in questo piccolissimo appunto bar di Santo Stefano di Briga. E poi un'altra gelateria che si chiama Da Alfredo, anche questa diciamo che è difficile da raggiungere, nel senso che è nell'isola di Salina, in località Lingua. Ebbene, credo che questo sia il campione del mondo delle granite. Credo che veramente le granite di questo posto siano non straordinarie, ma eccezionali, specialmente quella di pesca, ma anche quella di caffè e quella di Gelsi. Insomma, potrei continuare a iosa, e devo dire che questo è il momento delle gelaterie. Allora, chi ha una gelateria preferita, consiglio anche di andare sul sito www.gastronauta.it e di votare la sua gelateria preferita, perché ci sono presenti 300 gelaterie di tutta Italia. Bene, io ho finito con le mie suggestioni, se tu ne hai qualcuna da aggiungere. No, andrò a votare, l'avevi fatto con le pizzerie, adesso gelaterie, a questo punto prima di votarle però devo andare ad assaggiare i gelati e poi voterò, grazie. Sì, devi andare in 300 gelaterie, è un viaggio un po' lungo perché parte dalla Valle d'Aosta e arriva fino in Sicilia. Certo. È un buon modo, come sempre, no, per conoscere l'Italia, questo è un ottimo sistema. Ecco, però sulle gelaterie io farei così una postilla, sì. E direi questo. Gelateria con scritto artigianale significa ben poco, nel senso che artigianale non è ancora un qualcosa di disciplinato a livello disciplinari o di regolamenti. Quindi molti vuol dire tutto e niente, ecco. Mettono artigianale. Ce ne sono tantissime che sono seri e fanno dei procedimenti che si riconducono all'artigianalità, mentre ci sono altri che sfruttando il campo usano sicuramente, ecco, utilizzano dei sistemi che non sono artigianali. Solo la suggestione appunto dell'aggettivo. Grazie, ciao. A presto. Ciao, grazie Davide. il mio paradosso, ne stanno arrivando veramente tantissimi e questo mi fa sorridere. Aspettavamo dati da un cliente per dei subentri a dei soci morti e il presidente ha scritto che nessuno si era più fatto vivo. Il riposo del guerriero. Manet in 24 minuti. Biglietti per entrare alla mostra Palazzo Ducale a Venezia, biglietti che potete anche regalare se non riuscite ad andarci, la mostra sta fino alla metà di agosto e la possibilità appunto di vedere anche Palazzo Ducale, magari non siete mai stati, e di visitare ovviamente Venezia. La possibilità vi è data se riuscite ad associare le canzoni che vi faccio ascoltare al titolo di un'opera di Manet o qualcosa che riguarda l'artista. La canzone sta per iniziare, ma prima voglio ricordare il numero verde per partecipare: 800 24 00 24. Brightman di Harem, questa è la canzone che dovrebbe indicarvi il titolo di un'opera di Manet. Mauro da Roma, buongiorno Mauro, ciao. Buongiorno, buongiorno. Eccoci, scusami, io adesso ritornando alla puntata di oggi, parlava di paradossi e raccontavo che nel Minnesota se si morde qualcuno si è colpevole di aggressione, però se si posa la dentiera questo costituisce un aggravante. E mi segnalava un ascoltatore, Massimo di Latina, che dice che non dovrebbe essere un aggravante, visto che chi porta una dentiera ha una forza per la masticazione ridotta del 50%, quindi dovrebbe essere il contrario. Ma abbiamo visto che le leggi sono davvero paradossali alcune volte. Mauro, torniamo a Manet invece. Secondo te quale titolo dell'opera può avere a che fare con la canzone che ti ho fatto ascoltare? Sì, guardi, io ho provato così a fare riferimento alla mia memoria, ma non sono riuscito. Beh, ma guarda, è facile. Si intitola sì. Harem la canzone, e quindi è facile perché il quadro rappresenta un personaggio. E quindi chi può essere questo personaggio? Harem, quindi. Un personaggio che ha a che fare con l'harem, quale può essere? Sì, un attimo che provo a pensare. Secondo voi sta pensando o sta guardando su internet? Così, una domanda. Io ho una memoria visiva. Beato te, guarda. Ma guarda, ci vuoi... Non una memoria visiva, ma... Eccolo là. Sì. Essere molto veloce. Certo, sì, infatti anche a digitare sulla tastiera. Ma è facile, devi solo fare un'associazione mentale. Harem... Con Harem posso associare la rabbia, quindi ti ho parlato di personaggi, quindi è facile. Lorenz via rabbia. Non l'ha mica divinto, oppure... Manet. Sì, ciao Mauro, chi è che ti ha suggerito? Grazie. Chi è che ti ha suggerito lì? No, da solo, perché stavo vedendo le opere di Manet. Sto sfogliando una Ma luna, sono, però, guarda, insomma. sono tante, anch'io ho fatto un po' di fatica. Quelle più famose ormai poi sono andate. Mentre quando mi avete telefonato gentilmente, io stavo correndo, stavo facendo jogging. Stavo con le cuffie, siccome volevo andare a vedere la mostra, dico adesso li chiamo. Ho fatto un tentativo e subito è andata bene, però ti ringrazio molto, mi dispiace che però tu non sei riuscito a rispondere. Grazie. Cioè, appena sentirai la risposta ti arrabbierai anche. Ciao Mauro, grazie. Elena da Verona, ciao Elena. Ciao Stefano, buona domenica. Anche a te, dai, la risposta la diamo, così Mauro si morde le labbra perché è facile. A me sembra Odalisca. Era facile, Elena. Era facile, sì, poi è bellissimo, è splendido. Bene, allora Mauro si sta mordendo la lingua, continuerà a correre come stava facendo. Mi dispiace, sei anche vicina a Venezia, per cui ti potrai anche godere la mostra a Venezia. Grazie Elena, ciao. Me lo auguro proprio. Buona Grazie domenica, ciao. Nicolò da Brescia. Nicolò, pronto? Pronto, buongiorno. Eccoci, ciao. Senti, tu ovviamente avevi la risposta pronta nel cassetto, no? Voglio la risposta. Ti sento... Ti sento malissimo, Nicolò, però fai finta che tu non abbia mai chiamato. Ci risentiamo la settimana prossima. Ciao Nicolò. Ciao, ci sentiamo la settimana prossima. Vi faccio ascoltare infatti l'indizio che vi servirà per la settimana prossima. Ma come fanno i marinai a riconoscere sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però? Intorno al mondo senza amore come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va. Col cuore appresso una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà. Questa è la canzone che vi darei la risposta per la settimana prossima, che non è il quadro di Manet, ma invece qualcosa che ha a che fare con la sua vita personale. Per cui questa sarà la domanda che vi farò la settimana prossima per portarvi a casa i biglietti per la mostra. Vi avevamo lasciati con una domanda, il colmo per un pescatore, ne leggo uno molto divertente, bravo chi l'ha scritto. Il colmo per un pescatore è venire pescato dalla finanza e all'interrogatorio stare muto come un pesce. Grazie a voi ascoltatori, ovviamente alla Benedetta Acri in redazione in assistenza, a Peter Bescapè in regia. Buona settimana da Stefano Gallarini, ci sentiamo domenica prossima puntuale alle 10 con il riposo del guerriero.